America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Il presidente Obama ieri è venuto qua a New York e ha lanciato l'ultima sfida ai repubblicani per passare la riforma del sistema finanziario. Sentiamolo. And our families, businesses and the global economy will be vulnerable to future crises. That's why I feel so strongly that we need to enact a set of updated common sense rules to ensure accountability on Wall Street and to protect consumers in our financial system. Il presidente lancia un monito piuttosto preoccupante. Se non si andrà avanti con questa riforma, dice, le famiglie, l'economia globale, l'economia americana, i consumatori continueranno a restare su sabbie mobili. Questa riforma va passata, altrimenti non si andrà avanti con il modello di crescita per il ventunesimo secolo. Le cose sono cambiate, ci si deve adeguare. Avete sentito l'applauso che ha ricevuto il presidente americano che, come ha fatto in passato, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ha scoperto, ha trovato la chiave del messaggio populista. Frasi ad effetto, è riuscito a un certo punto a mettere in difficoltà qualcuno dei banchieri che era presente in aula, in particolare Lloyd Blankfein, il capo di Goldman Sachs, che in questi giorni non se la sta certamente passando molto bene. Noi dovremo colpire quei banditi che hanno approfittato della fiducia dei loro clienti. Cose di questo genere non si dovranno ripetere più, ha detto il presidente, riferendosi ovviamente in qualche modo a Blankfein, che non appariva certamente allegro o soddisfatto. Sentiamo ancora Barack Obama. Because ultimately there is no dividing line between Main Street and Wall Street. We will rise or we will fall together as one nation. Barack Obama ha parlato dal Cooper Union, un luogo sacro in qualche modo per la politica americana, parlò persino Lincoln e da lì partì la sua carriera politica che lo portò alla Casa Bianca. Ha voluto dunque scegliere un luogo non lontano da Wall Street, ma un luogo dal quale si poteva rivolgere direttamente agli americani per questo suo messaggio, per raccogliere il consenso popolare dietro di lui e per poter in qualche modo stringere nell'angolo i repubblicani. Il messaggio di Obama è: Wall Street e Main Street devono essere unite. L'unico modo in cui l'America potrà andare avanti è quando i due volti degli Stati Uniti, la finanza e il cittadino comune, si muovono in sintonia insieme. Il presidente ha ribadito le idee per la sua proposta di riforma, e cioè maggiore trasparenza, limiti alle esposizioni di queste banche, un'agenzia per la protezione dei consumatori, una nuova struttura che dia agli azionisti maggiore potere nel controllo soprattutto degli stipendi erogati a questi banchieri. Quattro linee dunque guida per questa riforma che è già in discussione in Parlamento, se non che il messaggio di Obama è stato subito preso non benissimo. Poche ore dopo la chiusura di questo suo discorso, devo dire molto bello, molto ispirato, anche con dei messaggi interessanti sul piano storico e su quello dell'importanza di raccogliere le sfide del cambiamento che ci giungono dall'economia, Barack Obama ha purtroppo incontrato l'ostruzionismo dei repubblicani al Senato. Si era appena aperta una seduta per discutere la proposta avanzata dal senatore Christopher Dodd, una seduta convocata da Harry Reid, quando Mitch McConnell, il capo della minoranza al Senato, ha bloccato la seduta, ha usato l'arma dell'ostruzionismo che ancora non era stata utilizzata ed ha bloccato il dibattito. A quel punto Reid si è infuriato, ha detto che gli americani non possono perdere il loro tempo a questo modo e ha sfidato i repubblicani. Lunedì ci sarà un voto di mozione per superare l'ostruzionismo e se i repubblicani resteranno compatti, beh, allora si dovranno confrontare con un'opinione pubblica che guarda con sospetto a Wall Street, una Wall Street che resta trincerata sulle sue posizioni e che, come ha detto Obama, è scesa su Washington con armate di lobbisti, ha cambiato e fuorviato il dibattito, non con l'obiettivo di migliorare queste riforme che sono, diciamolo, necessarie e importanti, se ne discute anche a Washington, al G20 proprio oggi, ma con l'obiettivo piuttosto di seppellire del tutto ogni opportunità di riforma. Consentitemi ora di fare un passaggio, come si dice, dalle stelle alle stalle, dal presidente Obama e dalla riforma storica ai lustrascarpe, a un fatto di cronaca che ha colpito l'opinione pubblica di New York e dell'America tutta. Listen, I'm tired of you reporters chasing me down. I keep telling you I cannot talk about this until my lawyers give me the okay. La voce che avete appena sentito è quella di John Swain, 72 anni, una vita passata a lucidare le scarpe. Siamo andati a cercarlo a Central Station sulla 42esima all'angolo con la Vanderbilt e diventato in qualche modo una celebrità. Perché? Perché è in attesa di processo per un crimine commesso in una di queste straordinarie guerre fra poveri. Come avete sentito quando mi sono avvicinato a Swain, così è rimasto molto sulle sue, dice: assolutamente non posso parlare, non voglio essere inseguito dai giornalisti, mi sono stufato di questi giornalisti. Il mio avvocato mi ha detto che non posso dire nulla fino a quando non saremo in tribunale, fino a quando non saremo al processo. Beh, che ha combinato John Swain, lustrascarpe newyorkese, con una gloriosa carriera alle sue spalle? È successo che ha dato fuoco a delle postazioni di altri due lustrascarpe. La prima volta il 22 marzo, la seconda volta il 6 aprile, e dunque recidivo. Swain era geloso di questi concorrenti che avevano avuto il permesso di potersi localizzare in una posizione migliore con il loro armamentario fatto di sedili, di ottoni e naturalmente di stracci e di lucidi per pulire le scarpe, in una posizione che quantomeno per anzianità doveva spettare a lui. Bene, il primo incendio forse è passato inosservato, il secondo no, si è mobilitata la polizia. Swain è stato denunciato e a questo punto dovrà presentarsi davanti ai giudici. Sentiamo cosa dice di lui uno dei suoi amici, un altro lustrascarpe che abbiamo trovato sempre lì a Grand Central. Everybody's been messing with him for a long time and they've been taking advantage of him and I think he just reacted. Lo conosco da sempre, dice questo suo amico e collega, e devo dire che è sempre stato un uomo straordinario e posso anche dire che hanno approfittato di lui. Ha reagito, forse ha fatto male a reagire, ma d'altra parte era stata commessa un'ingiustizia. Ecco, può sembrare strano che a New York, la capitale del mondo, la capitale della finanza, dove solo poche ore prima il presidente Obama discuteva dei massimi sistemi, dove i banchieri si danno battaglia per mantenere regole che gli hanno consentito di guadagnare miliardi di dollari, osserviamo poi questo tipo di situazioni. Ma questa è la natura della grande mela, per questo continua ad affascinarci. Ecco, questa era una delle tante storie, dei mille approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ma eccoci alla canzone del giorno, che ovviamente non può che essere legata a Wall Street. Ci lasciamo quindi sulle note di una delle canzoni più famose del film Wall Street del 1987, il film di Oliver Stone con Michael Douglas, che avrà fra qualche mese un replay con Wall Street 2. Ascoltiamo This Must Be the Place. Questo deve essere il posto dei Talking Heads. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.